Bastardo Tribe, dalla faida, siamo l'occulto di una gangbang di raga che ti spaccano, che ci scopano tua figlia su una base trap, provocatory words, Eros in the Web Psycho, Come to me. Psycho girl, come to me. Feel the infinity in ashish. Poems. Con un nudi che ti spara e poi ti ammazza. Giro con una K47 vaffanculo vacca, è tutta la scena italiana, perché è tutta questa scena, minchia, perché sono Axl Rose, sta traccia figlio di un poema. Axl Rose, figlio di un poema. Se questo è un uomo, è un dilemma. Dilemma di se questo è un uomo costretto a lavorare nel fango, Nothing in the moment of eternity. Bright. Look at my train, psycho. Blue in the skies. Look me in the skies. Come back and look me in the skies. I love you, Flora. Come on, baby, light my fire.